3. Al mattino poteva sentire la terra respirare. A mezzogiorno poteva sentire l'erba crescere. La sera poteva vedere dove i venti andavano a riposare. Molte cose invisibili erano limpide per Molly Brandt, chiare come una calligrafia, nitide come il profilo degli alberi in una giornata terza. Dalla nonna materna aveva imparato a vedere dove altri occhi erano ciechi, a sentire dove altre orecchie erano sorde. Aveva imparato a cattivarsi gli Oyaron, spiriti che guidano attraverso i sogni, e aveva appreso il modo corretto di svegliarsi. Aprire le palpebre, ringraziare il padrone della vita, contare 3 respiri e alzarsi subito, prima che la pigrizia del corpo intorbidi i pensieri. Così la testa rimane limpida, i sogni non sfuggono, i mali dell'anima possono essere curati. La luce della finestra tagliò l'oscurità. La parte inferiore del letto rimase in penombra, ma dalla vita in su le lenzuola erano inondate di sole. Molly si levò con scioltezza, i capelli neri ricaddero sulla veste di lino, versò il contenuto di una brocca nella bacinella, lavò il volto, si asciugò con una pezza di cotone e alzò il capo. Nello specchio un reticolo di lievi cicatrici, pelle che il vaiolo aveva scalfito appena. Un'altra battaglia vinta al fianco di Sir William. Il solletico dei tuoi capelli mi infiamma di passione, arrossa le mie guance. La voce giunse su un alito di vento. Molly scrutò il riflesso delle pupille. Poteva sostenere lo sguardo di chiunque, anche quello di Molly Brandt. Arendi Vanen, donna di potere, ricca di roba, di terra e di figli, capace di sognare con forza come accadeva al tempo dei nonni, quando Hendrik era giovane e la nazione prosperava. Nel sogno di quella notte la chiesa era aggrimita. Occhi e teste sfioravano il soffitto come sacchi di mais ammucchiati per l'inverno. Proprietari irlandesi, fittavoli scozzesi, guerrieri Mohawk, orsi e lupi accovacciati sul pavimento di terra, enormi tartarughe reggevano l'altare sul dorso. Il pastore, in piedi sul pulpito, sfogliava il libro delle preghiere. Peter si alzava in piedi, imbracciava il violino, la vecchia marcia irlandese che suo padre faceva intonare alle cornamusa prima di dare battaglia. 2 sachem in guanti neri e mantello da lutto si avvicinavano alla bara per calarla sotto l'altare, ma la fossa non era ancora scavata. I fedeli si facevano avanti, uno per volta, raccoglievano una vanga e provavano ad affondarla. Invano, la terra era più dura del ferro, il manico del badile si spezzava. Joseph impugnava il tomahawk per usarlo come piccone. Un guerriero lo affiancava, il volto in ombra. Scavava con le unghie, finché le dita non buttavano sangue. Molly si accostò alla finestra. Capannelli di uomini e donne affollavano lo spiazzo davanti all'emporio. Un cacciatore indiano carico di pellicce e un mercante di pentole volevano ingaggiarla come interprete e concludere i loro scambi. A un barcaiolo servivano provviste per il viaggio e la pece per rattoppare un battello. Coloni delle fattorie vicine erano venuti per una proroga sui debiti di famiglia. C'erano 2 signore tedesche di Palatine, quelle che la chiamavano strega, ma poi attraversavano il fiume fino al suo negozio per via di un infuso miracoloso contro il mal di testa. C'erano cani e bambini, anziani e guerrieri, sachem per digiorno in attesa della dose di rum. Le donne, giovani e anziane, erano lì per scambiarsi i sogni, discutere le novità e con l'occasione comprare carne salata. Anche oltre i vetri spessi, scuri e pieni di bolle, Molly percepì eccitazione. Il volume delle voci era più alto del solito, il tono concitato. Non la chiacchiera ordinaria che inganna l'attesa, ma una valanga di frasi. Tutti parlavano, nessuno sembrava ascoltare.